Questa è la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore in questi termini: fermati presso la porta della casa del Signore e pronuncia questo discorso. Dirai: ascoltate la parola del Signore, o voi tutti di Giuda che entrate per queste porte per adorare il Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, perché voglio farvi abitare in questo luogo. Non confidate nelle parole ingannatrici dicendo Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo. Sì, se veramente migliorerete la vostra condotta e le vostre azioni, se veramente farete giustizia l'uno verso l'altro, se il forestiero, l'orfano e la vedova non opprimerete e non verserete sangue innocente in questo luogo, e se non andrete dietro a dei stranieri per vostra sventura, allora io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che io ho dato ai vostri padri da sempre e per sempre. Ecco, voi personalmente vi fidate su parole ingannatrici che non giovano. Come? Rubate, uccidete, commettete adulteri, giurate il falso, incensate Baal, andate dietro a dei stranieri che non avete conosciuto e poi venite e ve ne state dinanzi a me in questa casa dove si invoca il nome mio e dite siamo salvi solo perché possiate compiere tutte queste abominazioni? Forse che ai vostri occhi è divenuta una spelonca di ladri questa casa sulla quale è stato invocato il mio nome. Ma anch'io osservo, oracolo del Signore, andate per favore al mio luogo in Silo, dove io feci abitare il mio nome all'inizio, ed osservate cosa gli ho fatto a causa della malvagità del mio popolo Israele. Ed ora, giacché avete compiuto tutte queste azioni, oracolo del Signore, e mentre io vi parlavo premurosamente ed insistentemente, voi non avete ascoltato, vi chiamavo ma non avete risposto, ebbene, io agirò verso la casa sulla quale è stato invocato il mio nome e nella quale voi siete fiduciosi, e verso il luogo che io ho dato a voi e ai vostri padri, come ho agito verso Silo. Vi respingerò dal mio cospetto, come ho respinto tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. Tu poi non pregare per questo popolo e non innalzare per esso preghiera e supplica, non insistere verso di me, perché non ti darò ascolto. Non osservi tu forse ciò che essi fanno nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme? I figli raccolgono legna e i padri accendono il fuoco e le donne intridono la pasta per fare focacce alla regina del cielo e si fanno libagioni a dei stranieri per offendermi. Forse che essi offendono me, oracolo del Signore, o non piuttosto se stessi, a loro stessa vergogna. Perciò così dice il Signore Dio. Ecco, la mia ira, il mio sdegno, si riverserà in questo luogo contro gli uomini e contro il bestiame, contro gli alberi del campo e contro i frutti della terra. Tutto arderà senza estinguersi. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la carne. Eppure io non parlai ai vostri padri, né diedi ordini a loro quando li feci uscire dal paese di Egitto riguardo all'olocausto e al sacrificio. Bensì questa cosa ordinai loro. Ascoltate la mia voce, ed io sarò vostro Dio, e voi sarete mio popolo. Camminerete per ogni strada che io vi avrò ordinato affinché vi sia per voi prosperità. Ma non hanno ascoltato, né prestarono il loro orecchio, anzi hanno camminato secondo i consigli nella caparbietà del loro cuore malvagio e sono andati indietro e non avanti. Dal giorno in cui uscirono i vostri padri dal paese d'Egitto fino a quest'oggi, inviai loro tutti i miei servi, i profeti, ogni giorno, premurosamente e costantemente, ma non mi hanno ascoltato e non hanno prestato il loro orecchio. Anzi, hanno indurito la loro cervice, han peggiorato rispetto ai loro padri. Tu dunque riferirai loro tutte queste parole, ma non ti ascolteranno. Li chiamerai, ma non ti risponderanno. Dirai loro: questa è la nazione che non ha ascoltato la voce del Signore suo Dio e non ha accettato la correzione. È scomparsa la fedeltà, è scomparsa dalla loro bocca. Tagliati la chioma, gettala via e intona sulle alture un lamento, perché il Signore ha rigettato e abbandonato la generazione del suo furore. Sì, i figli di Giuda hanno agito malvagiamente ai miei occhi, oracolo del Signore. Hanno collocato le loro abominazioni nella casa nella quale è stato invocato il mio nome, contaminandola, e hanno costruito le alture di Tofet, nella valle Ben Innon, per bruciare i loro figli e le loro figlie con il fuoco, ciò che non ho ordinato e non mi è venuto mai in mente. Perciò ecco, vengono giorni, oracolo del Signore, che non si dirà più Tofet e valle Ben Innon, bensì valle del massacro, e si seppellirà in Tofet, perché non vi sarà altro posto. I cadaveri di questo popolo diverranno pascolo per i volatili del cielo e per le bestie della terra, e nessuno si spaventerà. Io farò sparire dalle città di Giuda e dalle strade di Gerusalemme voce di giubilo e voce di letizia, voce di sposo e voce di sposa, perché il paese sarà sotto la spada.